America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Allegro scampanellio del Dow Jones, la chiusura dell'indice Dow Jones al New York Stock Exchange a New York. Allegra perché c'è stato un altro record, devo dire, presto non sarà più notizia il nuovo record, nel senso che una volta che ne hai fatto uno poi bastano tre punti in più che quello diventa il nuovo record, e così è successo ieri. Un aumento dello 0,3% dell'indice Dow Jones ha portato l'indice a quota 14.291, prima era 14.264, e dunque, anzi, devo dire, nel durante è andato addirittura al di là di 4.300 punti. Beh, insomma, questo ci dice che cosa? Che, insomma, lo dicevo anche ieri, ma l'America sta andando avanti, l'America ha ringranato la sua marcia, le aziende fanno profitti, le cose vanno bene, l'America, paese un po' denigrato, è stato in gravi difficoltà, però tutto sommato, beh, ci insegna un po' una lezione, secondo me. Ce la insegna perché? Ma perché continua a guardare in avanti, accettare i cambiamenti nel senso positivo del termine. Vi faccio un esempio. Ieri, dopo la chiusura dei mercati, abbiamo avuto una notizia, alquanto stupefacente dal punto di vista del costume, dal punto di vista delle tradizioni, dal punto di vista dell'economia, perché Time Warner, il colosso dell'entertainment, dell'editoria mondiale, ha annunciato uno spin-off della divisione magazine, cioè tutta la catena dei magazine, dei settimanali, dei periodici controllata dal gruppo Time Warner diventerà una società separata, probabilmente sarà venduta e troverà destini diversi. Che cosa c'è dentro questo contenitore? Beh, naturalmente Time, la rivista storica, ma c'è anche Sports Illustrated, che ha la famosa copertina annuale con una splendida ragazza in costume da bagno. C'è Fortune, il grande classico dei magazine del business. Insomma, dei nomi che hanno fatto la storia della cultura, della società, dell'economia americana, e che vengono in qualche modo messi da parte perché questo grande gruppo della comunicazione ritiene che il suo futuro possa avere dei margini di crescita, di profitto e dunque di successo in settori più all'avanguardia che non in quelli della tradizionale carta stampata, che in qualche modo guardano indietro invece che guardare in avanti. Cosa resta alla parte Warner? Beh, intanto Warner Brothers, il film, ma soprattutto il cavo, la distribuzione di programmi, di informazione via cavo, la CNN, che è stata acquistata a un certo punto dalla Time Warner. L'altra grande notizia dominante di ieri è stato il post Chavez. Voglio parlare nella puntata di oggi. Ho con me ai microfoni di America 24 Moises Naim, Senior Fellow al Carnegie Endowment, un think tank americano, autore di un libro, The End of Power, la fine del potere, di cui si parla moltissimo proprio in questi giorni negli Stati Uniti. Il libro è appena uscito, ma anche il Financial Times ha dedicato un ampio profilo a questo libro. E soprattutto, devo dire, Naim, che parla un italiano perfetto perché è nato in un contesto culturale italiano, è anche cresciuto in Venezuela e conosce a fondo il paese. Buongiorno Moises. Buongiorno Mario, piacere essere con voi. Eccoci, allora, insomma, in Venezuela è successo qualcosa di importante, tutti danno un'idea che c'è un quadro geopolitico che cambia, sia per l'interno, sia per quel che succede in Sud America o succederà in Sud America. Sei d'accordo? Puoi darci una tua impressione a caldo? Sì Mario, non c'è dubbio che è finita una epoca, è morto il presidente Hugo Chavez, che è stato al potere per 14 anni, nel quale ha usato il potere, è stato al centro del potere in una maniera veramente personale, centrale, avendo il controllo di tutti gli aspetti del potere del paese, e così che comincia una nuova epoca. Ecco, una nuova epoca che riguarda non solo il Venezuela, di cui parleremo fra poco, ma riguarda il Sud America. Ti dirò che mi ricordo nel 2005 di essere stato al vertice delle Americhe del Mar della Plata, e mi ha colpito molto perché era riuscito Chavez a riempire uno stadio e aveva dato la misura della sua forza, perché non c'era soltanto Chavez, lui si era messo alla testa di questo movimento che si ispirava a Simón Bolívar, e quindi aveva come suo partner, alleato politico, Evo Morales in Bolivia, l'Ecuador, naturalmente Fidel Castro. Quel che mi ha colpito è che anche una populista di destra in teoria come Cristina Kirchner tutto sommato gli strizzava l'occhio. Ecco, Fu un imbarazzo quel vertice per George W. Bush. C'era un'alleanza sudamericana con questa pretesa rivoluzionaria contro l'America. Ecco, qual è oggi l'umore del Sud America vis-à-vis il vicino del Nord, vis-à-vis il gringo? È una Sud America molto divisa, ci sono i paesi che seguono le idee di Chavez, che si chiama il Gruppo dell'Alba, l'alleanza latinoamericana bolivariana, dove c'è, come hai detto, c'è Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, e poi ci sono gli altri paesi. E i risultati parlano, poche volte nelle scienze economiche e nella politica si vedono esperimenti dove si possono provare due idee e vedere quale funziona e quale no. Il fatto è che oggigiorno la Colombia, il Cile, il Perù, il Brasile, il Messico in America Latina stanno sperimentando un enorme boom di crescita, una bassa inflazione, una enorme espansione della parte delle reti sociali. Invece i paesi dell'Alba hanno anche loro un'espansione delle reti sociali, però hanno la più grande inflazione dell'America e hanno una situazione, quasi tutti loro hanno una situazione economica molto precaria. Quindi il populismo rivoluzionario, di matrice rivoluzionaria centralizzata, alla fine non funziona, e questo è il messaggio che deduciamo. Questo è il messaggio, e la sorpresa è che, anche se questo lo sappiamo, è stato provato più volte, continuano a arrivare questi leader che continuano a promettere queste cose, la gente crede in loro e si fanno, fanno molti sforzi che poi non risultano quello che è la cosa desiderata. Moises, parlando di populismo, in Italia si sta parlando di populismo perché ha vinto un partito, quello di Grillo, che è un partito populista. Secondo te, anche da quello che hai scritto nel tuo libro The End of Power, la fine del potere, c'è un propagarsi di un problema populista? Cioè ci sono finte promesse che ammaliano la popolazione? O sono promesse vere? Sta succedendo nel mondo, stiamo vedendo in Italia, l'abbiamo visto in Grecia, lo stiamo vedendo in altri paesi d'Europa e l'abbiamo visto in certi paesi d'Europa, di America Latina. E è basata nella veramente dolorosa situazione di questi paesi, dove c'è moltissima corruzione, dove c'è moltissima ingiustizia, dove si sta chiedendo alla gente di fare degli sforzi che sono realmente veramente incredibili, e allora la gente si stanca e comincia a credere in idee dove essenzialmente le leggi della gravità economica non esistono e si può avere dei risultati senza sforzo. O con una maniera differente di farlo, di una maniera completamente differente, e quello continua, è sempre stata, è cominciata con Perón, è continuata sempre l'idea di promettere distribuzione senza creazione, e questo sta con noi da tempo, e la grande sorpresa è che si ripete, anche se si prova e non funziona mai, ma si continua a provare perché c'è sempre la speranza che questa volta è differente. Barack Obama dice che è cambiata l'epoca e che si aprono le porte della democrazia al Venezuela. Sei ottimista o pessimista? Io credo che c'è totale incertezza, non sappiamo esattamente qual è la struttura del potere in Venezuela, non sappiamo esattamente qual è l'influenza enorme che c'ha Cuba e i fratelli Castro nel Venezuela, che avranno un ruolo definitorio in quello che succede nel paese. Quello che si decide in Havana, quello che si decide in Cuba è molto più importante per il Venezuela che quello che si decide a Washington. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Direi di restare in tema Sud America, in tema Venezuela. Mi viene in mente una canzone che adoro, Harry Belafonte e Matilda. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody. Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now. Matilda. Join round the corner. Matilda. Matilda, she take me money and run. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!